Allora, buonasera, buonasera a tutti e con, come si dice, con vivo piacere che stasera presento la conferenza di Giulio Giorello nell'ambito di questo nostro seminario permanente interdisciplinare sulla modernità. La conferenza, come sapete, è dedicata a un tema in cui Giulio è maestro, modernità e rivoluzione scientifica. È inutile che ricordi i tantissimi scritti di Giulio, ma è uno storico della scienza che formatosi alla grande scuola di Ludovico Geymonat, ha soprattutto nel corso degli ultimi 10-15 anni approfondito una serie di temi che a mio parere sono rilevanti e che intrecciano la storia della scienza con genealogie anche di simboli, di miti, il mito di Gilgamesh. Giulio sa perfettamente una cosa importante, che anche la tradizione occidentale, a differenza di quanto ritengono alcuni filosofi di matrice heideggeriana, non nasce assolutamente con la filosofia greca, che la filosofia greca non è l'inizio di tutto, ma si riferisce a un'origine precedente, che è quella che viene chiamato il paese dei due fiumi, la Mesopotamia. E la grande scena mesopotamica, sia con i miti sia con la prima idea di indagine scientifico-naturale, è la vera scena influente dell'Occidente. E poi Giulio ha lavorato, come dire, sviluppando delle tematiche che vanno al di là della prospettiva di Geymonat, nel senso che si è misurato profondamente sia con la teoria delle rivoluzioni scientifiche di Kuhn, sia soprattutto con l'empirismo relativistico di Feyerabend, e soprattutto negli ultimi anni ha intensificato, non soltanto come studioso, ma anche come zevirista del Corriere della Sera, ha intensificato una battaglia, diciamo, culturale molto importante a favore della posizione laica. E, ecco, se dovessi in qualche modo definire la sua posizione, la definirei una posizione di relativismo critico, saldamente ancorato nella tradizione empirista, e per l'intreccio che io amo anche moltissimo di due autori della modernità, che sembrerebbero apparentemente contraddittori: per un verso Hume, David Hume, per l'altro verso Baruch Spinoza. E mi direte che c'entra un empirista radicale come Hume e un monista metafisico come Spinoza? C'entrano, e come, in quanto un autore come Nietzsche ha saputo anche, diciamo, saldarli insieme in una prospettiva. Quindi un filosofo della scienza sui generis, che parte da una forte e rigorosa competenza matematica e che è riuscito in qualche modo ad allargare la prospettiva nel senso di una visione laica, libertaria, che a mio parere è estremamente importante nell'attuale temperie, ecco, del dibattito intorno alla laicità, un dibattito che è divenuto oggi, proprio dico oggi, nella giornata di oggi pressante, con la decisione della Corte di Strasburgo di abolire, appunto di ritenere legittima la richiesta di abolizione dei crocifissi dai diciamo luoghi pubblici. E qui naturalmente si pongono una serie di problemi molto seri, perché il problema vero è oggi la discrasia, la distanza che si è venuta a determinare tra il dibattito della sfera pubblica e il dibattito in ambito giuridico-politico. Il dibattito della sfera pubblica appare arretrato rispetto alla consapevolezza giuridico-politica cui sono pervenute una serie di istituzioni, anche europee, che non a caso pongono dei problemi che vanno sicuramente molto al di là del livello del dibattito della sfera pubblica, in particolare della sfera pubblica italiana. Sono tutti temi che sono saldamente intrecciati con il tema della scienza. Una delle poste in gioco delle nostre società democratiche è la possibilità che la ricerca scientifica si possa sviluppare appunto liberamente e possa, come dire, dar luogo a dei risultati fecondi, la cui ricaduta anche nell'ambito della politica e del diritto è estremamente preziosa. Quindi noi avremo stasera anche un discussant di grande, come dire, prestigio, uno storico della scienza, anzi specialista di storia della chimica, soprattutto Antonio Di Meo, che è anche un amico della Fondazione, ha contribuito in passato a un bellissimo progetto sulle istituzioni della ricerca scientifica nel nostro paese nel corso del Novecento. Ecco, quindi io penso appunto che il dibattito sarà sicuramente molto stimolante, non la voglio fare lunga, quindi do la parola a Giulio Giorello. Si usa questo, vero? Sì. Si usa questo per la registrazione. Anche okay. Grazie. Allora, tanto ringrazio l'amico Giacomo Maramà, la Fondazione Basso, per questo invito. Voi avete un po' di pazienza, la voce non è nelle sue condizioni migliori perché il male di stagione, che l'influenza mi ha un po' steso. Non è la porcina, però, ho fatto il tampone, per adesso è solo la buona, la vecchia influenza stagionale, ecco, quindi che peraltro si trascina da 25 giorni perché non mi curo. Se fosse la porcina o sarei guarito o sarei già morto, quindi state tranquilli che non dovesse essere più di tanto contagioso. Allora, gli amici mi hanno detto che di stare in una mezz'oretta come primo intervento e poi la parola credo vada al discussant e a voi, no? Allora, io mi limiterei a prendere tre spunti di riflessione, diciamo un primo di carattere più storico, un secondo di carattere più teorico e il terzo invece con una serie di riferimenti alla scienza contemporanea. Allora, cominciamo con il punto di carattere storico. Prendiamo le mosse dal fatto che siamo in tempi di centenari, bicentenari, eccetera, eccetera. Quest'anno, per pura coincidenza, si è celebrato i 400 anni dalle osservazioni di Galileo col cannocchiale, le Padova, ottobre sostanzialmente del 1609, poi sono quelle osservazioni che prenderanno corpo scientifico nel Siderus Nuncius del 1610, ma le prime grandi osservazioni di Galileo sono del 9 e riguardano in particolare la faccia della Luna, che Galileo, grazie al tubo ottico, o cannocchiale come viene chiamato, mostra essere scabra, accidentata, esattamente come quella della nostra Terra, la Luna un'altra Terra. Però, mentre altri pensatori l'avevano detto in via di discorso, cioè ragionando, non so, voglio dire, Plutarco piuttosto che Leonardo da Vinci, piuttosto che Giordano Bruno, Galileo dice: lo faccio vedere, anzi quasi toccar con mano con il mio tubo ottico. E l'elemento interessante è questo ingresso potente dello strumento nell'attività di Galileo. L'altro grande centenario che ricorre è il centenario della nascita bicentenario della nascita di Charles Robert Darwin. il 12 di febbraio, anche qui stiamo nel 9, in un 9, e più precisamente nel 1809. Da noi il 12 febbraio, secondo me, è un altro anniversario, no? Dei patti lateranensi, che poi sono stati introdotti nel modo che noi sappiamo, persino nella nostra Costituzione, no? Ecco, ma invece io preferisco ricordare il 12 febbraio come il giorno in cui nacque Charles Robert Darwin, e anche il giorno in cui nacque un altro personaggio piuttosto interessante, che fu un giovane, che poi divenne un giovane avvocato di belle speranze del Kentucky, si chiamava Abraham Lincoln. I due è bene metterli insieme, perché uno liberò gli schiavi di quello che allora era la democrazia più avanzata, cioè degli Stati Uniti, l'altro invece liberò la nostra testa dalla schiavitù a una serie di credenze dogmatiche che furono polverizzate dall'evoluzionismo darwiniano. No, sembra che queste due grandi disvolte, quella di Darwin e quella di Lincoln, abbiano ancora qualcuno che vi resiste, ecco, qualcuno no, che vi resiste, visto che ho scoperto quest'oggi leggendo i giornali che c'è una sezione italiana del KKK, tanto per dirne una, ecco. E gli equivalenti del KKK in campo della biologia si chiamano creazionisti, e ogni tanto vengono fuori dicendo che Darwin ci ha condannato alla scimmietà. In realtà questi riferimenti buttati lì, che potevano sembrare casuali, casuali non sono. Intanto Darwin ammirava Lincoln e si batté perché l'opinione britannica si riorientasse a favore dei nordisti contro i sudisti durante la guerra civile americana. E questo tra l'altro mostra bene come Darwin sia lontanissimo dal cliché del darwinismo sociale. Molti anti-darwiniani oggi dicono: ah, ma Darwin è responsabile del darwinismo sociale, eccetera, eccetera. Non è vero, è falso, proprio, è letteralmente falso. Anzi, il suo mastino Thomas Huxley mirò al darwinisti sociali come a uno dei suoi bersagli polemici preferiti. Quindi Darwin non è per la supremazia dell'uomo bianco, tanto per intenderci, invece una persona che è fortemente attenta alle diversità e ama la diversità. Proprio uno che scrive nel finale della sua Origine delle specie, cioè le infinite bellissime forme, è uno innamorato della diversità. Quindi c'è una non banale assonanza tra Darwin e Lincoln. Ma ancora più interessante è il riferimento a Galileo. Darwin si credeva il Copernico o il Galileo delle scienze del vivente. Il riferimento alla grande rivoluzione astronomica è presente in tutto il dibattito sul darwinismo, e bisogna dire subito un'altra cosa, che secondo me la modernità, nel senso tecnico del termine, visto che sulla modernità e scienza che stiamo parlando, secondo me si colloca tra due grandi rivoluzioni scientifiche. Una è la rivoluzione copernicana, di cui Galileo forse è il più abile propagandista nella cultura italiana. Dico propagandista nel senso migliore del termine. Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è un grande manifesto copernicano, no? Come lo definì una volta Ludovico Geimonà, che tu hai avuto la gentilezza di evocare qui. 1632 la data di pubblicazione. Quindi l'inizio della modernità, secondo me, si colloca tra 500 e 600, tra Copernico e Galileo. Mentre la fine della modernità in un senso stretto, secondo me, si colloca proprio tra le due grandi pubblicazioni di Darwin, L'origine delle specie, che è del 59, e L'origine dell'uomo, che è del 1871. Questo è un momento molto importante per l'Europa, ma non solo per l'Europa, è il momento appunto che il mondo conosce grandi rivoluzioni politiche, come la modernizzazione dall'alto del Giappone, la guerra franco-prussiana nell'Europa continentale, E io direi soprattutto il grande trauma, è stato un grande trauma della guerra civile americana, che non è uno scontro tra pistoleros vestiti di blu contro quelli vestiti di grigio, ma invece una guerra con una complessità enorme anche sotto il profilo, direi, del diritto, ma non c'è bisogno che lo dica uno che è un ammiratore di John Calhoun come l'amico Giacomo Maravano. Quindi forse questa è la fine della modernità e l'inizio di quello che chiamiamo il postmoderno. Tu hai evocato prima giustamente la figura di Nietzsche. Nietzsche è un grande lettore di Darwin, è uno che fa i conti con la penetrazione del darwinismo nella cultura di lingua tedesca, specialmente in Umano, troppo umano, vede positivamente l'elemento illuministico e di emancipazione intellettuale di Darwin, vede con timore invece le generalizzazioni del darwinismo sociale. Ha lo stesso atteggiamento che avrà un irlandese che aveva studiato Darwin dei gesuiti, naturalmente lì li facevano studiare per poi meglio confutarli. Questo irlandese che studia i gesuiti si chiama James Joyce e presenta la doppia faccia di Darwin quando lo fa attaccare da Stephen Dedalus, ma difendere da Leopold Bloom in un memorabile capitolo di Ulysses. E anche lì il nostro Bloom mette insieme il gusto di guardare le stelle e il gusto di guardare le specie del vivente intorno a noi come due grandi costellazioni, proprio come in questi due punti della modernità. Certo, uno potrebbe dire in Darwin non c'è la tecnica. Non c'è ancora la tecnica, ma la tecnologia entrerà potentemente nelle scienze biologiche, direi dalla genetica americana dell'inizio del Novecento, per poi non parlare delle coperte di Watson e Crick del 1953. Sono proprio Watson e Crick che alla fine del loro articolo pionieristico guardano a una serie di realizzazioni, di incarnazioni tecnologiche delle loro scoperte, che sono poi la strada di quelle che oggi si chiamano le conquiste dell'ingegneria genetica. Quindi la dimensione tecnologica unisce queste due grandi svolte, queste due grandi rivoluzioni delle scienze della natura inanimata da una parte e della scienza della natura vivente dall'altra, con una serie di scambi anche molto interessanti dal punto di vista della vivacità delle idee. Se oggi noi pensiamo che il nostro universo è uno dei tanti possibili e che anche gli universi evolvano, una tesi che è stata sostenuta per esempio in un bel libro di recente da Liz Mullin, beh, in qualche senso i cosmologi devono qualche cosettina a questo signore che si chiama Charles Darwin e che si definiva il Copernico o il Galileo delle scienze della vita. Perché io ho usato questa cesura? Perché in realtà qualche volta uno è portato a credere che dopo ci sia stata semplicemente una prosecuzione delle conquiste aperte da Galileo e aperte da Darwin rispettivamente. È un cliché che più volte ha funzionato anche nella cultura italiana. Vi ricordate Galvano della Volpe? Karl Marx, il Galileo delle scienze morali. Ma in realtà la scienza dopo il 1871, tanto per prendere una data simbolica, no? Ha conosciuto tutta una serie di rimesse in discussione delle antiche certezze, compreso delle grandi conquiste di Galileo o di, bisogna fare il nome ovviamente, di Newton, ed è nata una scienza piuttosto diversa nelle sue considerazioni di carattere teorico e nelle sue modalità di applicazione pratica. Penso per esempio alla grande svolta del 1905 nella fisica, la meccanica statistica, la fisica dei quanti e la relatività, tutte e tre legate a un nome solo, che si chiama Albert Einstein. Oppure penso alla grande svolta della meccanica quantistica con Heisenberg e la sua scuola nel 1905. 1925-27, o penso a tutta la riflessione profonda sulla dualità di onda e corpuscolo di un Niels Bohr, o alla concezione della matematica come anticipazione della fisica sviluppata dal grandissimo Paul Dirac. Ecco, e qui mi sono limitato a una delle scienze che, per ragioni personali, quella che a me è più vicina, che è la fisica, insomma. Ma potremmo ritrovare questa novità profonda di metodi, di problemi nella scienza anche applicata. Applicata oggi, ma non vorrei andare adesso troppo nell'esemplificazione, e dopo aver fatto questi riferimenti storici per ancorarci un po' agli sviluppi degli ultimi 3-4 secoli, non siamo quindi tornati indietro agli assiri babilonesi, che pure mi sono fortemente simpatici, come sa Giacomo Maramao, a me interessava sottolineare l'elemento, un po' il filo rosso filosofico di questa esperienza scientifica. Ora, io penso che abbia ragione lo storico della matematica Maurice Klein quando, parlando di Galileo Galilei e in particolare delle sue idee sul mondo come scritto in caratteri matematici, dice che quella di Galileo è una dichiarazione di indipendenza intellettuale che precede almeno un secolo la grande dichiarazione di indipendenza politica formulata dai ribelli delle colonie nordamericane. E ha ragione, è in campo scientifico che noi vediamo emergere potentemente un'idea di libertà di ricerca che è ben incarnata dalla vicenda di Galileo, anche dall'aspetto negativo di questa vicenda, e che viene questo aspetto sottolineato potentemente da pensatori che vivranno esperienze diverse, valga per tutti John Milton, perché io ho visto, signore del Parlamento d'Inghilterra, in Italia Galileo Galilei, ormai vecchio e cieco, cacciato in prigione per aver osato pensare diversamente da quello che volevano i suoi censori francescani e domenicani. 1644, Areopagitica di John Milton. Ora Milton calca un po' le tinte, perché Galileo non era proprio cacciato in prigione, ne stava perdendo la vista nel 1638, quando presumibilmente ha incontrato dalle parti di Vallombrosa Galileo Galilei. Però aveva ancora la capacità Galileo di far uscire i suoi testi di meccanica e di struttura della materia e farli stampare nella Libera Lei da protestante con il titolo Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Quindi in realtà non era proprio così, ma ha ridotto Galileo Galilei. Ma Milton colpiva nel segno, cioè faceva vedere come il modo di procedere della scienza matematizzata è un'esperienza di libertà. Per la sua capacità di mettere continuamente in discussione i presupposti o di relativizzare una serie di assunti ai presupposti accettati. Una cosa che Galileo ha chiarissimo nelle polemiche tra Simplicio, Salviati e Sagredo, che sono inserite sia nel dialogo che nei discorsi, e che erano perfettamente capite come tali, cioè come esperienze di libera polemica dei suoi contemporanei. Da quelli che hanno per questo costretto alla biura e da quelli invece che hanno visto in Galileo un eroe della scienza, forse forzando le stesse intenzioni di Galileo, come è il caso appunto di Milton che citavo prima. Qualche decennio, siamo a due decenni dopo l'asserzione di Milton, voi leggete negli statuti della Royal Society, cioè una delle prime grandi accademie scientifiche internazionali, un enunciato di questo tipo: noi non siamo qui per fare una filosofia della natura che sia cattolica, lo dico un papista naturalmente, presbiteriana o protestante sta per Church of England ovviamente, non siamo qui per fare una filosofia della natura che sia scozzese, irlandese o inglese, siamo qui per confrontare le nostre idee per la crescita della conoscenza e per il benessere del genere umano. Questo è dagli statuti della Royal Society, usando come fonte lo storico ufficiale centrale della società, che è Thomas Pratt. Quindi è questa forma di libertà di opinione che diventa centrale nell'impresa scientifica, ed è qualcosa che secondo me è rimasto anche nella nostra età tra virgolette postmoderna. Ho letto ieri un bell'articolo sul Corriere di Paolo Giordano, lo scrittore, che commentando il fatto che un dissenziente iraniano, un matematico, fa vedere come la matematica abbia questa capacità di mettere in questione nell'establishment. L'aveva probabilmente già ai tempi di Talete, se ha ragione quella fonte, che credo sia Plutarco, che ad un certo punto, quando Talete risolve un problema di geometria per il faraone e intasca il premio, Talete dice: beh, adesso che faccio? È un cortigiano gli dice: intasca i danari e scappa, perché i potenti non amano la geometria. Ecco, quindi la matematica naturalmente ha questo potere destabilizzante, che è un elemento molto, molto forte e che è stato ben capito anche da grandi di matematici dell'Ottocento e del Novecento, e che credo che valga ancora oggi come un elemento in cui si manifesta il diritto alla critica, che poi è diventato un punto forte, un punto quasi istituzionale nelle dichiarazioni formali appunto dei ribelli americani al tempo dell'esperimento democratico per eccellenza, cioè di quelle delle discussioni che poi portarono alla Costituzione americana e soprattutto al Bill of Rights voluto da Thomas Jefferson. Ma questo legame è diretto, se voi andate a vedere i testi, i riferimenti dei padri politici dell'esperimento americano hanno in mente il caso di Galileo, lo citano esplicitamente, ma c'è qualcosa forse di più sottile in questo. Se voi prendete per esempio un autore che è stato molto caro a me, il mio carissimo amico Marco Mondadori, che è il John Stuart Mill di Liberty, del saggio sulla libertà, 1859, siamo più o meno alla stessa epoca di Darwin. Darwin ha già reso pubblici le sue idee in un celebre incontro con Wallace alla Società Linneana, quindi in un momento così importante per la cultura di lingua inglese, Mill esce fuori con l'idea che la libertà del singolo individuo ha un modello nella libertà di ricerca scientifica, che la libertà di ricerca scientifica è libertà di opinione e di critica, ma c'è qualcosa di più, è anche libertà di manipolare la realtà, quindi è libertà di innovazione tecnologica, di capacità di intervento. Quindi non pensiamo che la libertà scientifica sia soltanto nel cielo delle idee, vuol dire investimenti, vuol dire economia, vuol dire tecnologia, vuol dire capacità incidere su problemi aperti della nostra società, nel bene e nel male. Perché una delle grandi linee dell'innovazione tecnico-scientifica è quella della guerra. Questo lo sappiamo dai tempi, voglio dire, dai tempi preistorici, sarei portato a dire, ma se vogliamo prendere, non so, le pagine bellissime in cui Plutarco racconta nella vita di Marcello i prodigi di Archimede nel combattere la flotta romana che assedia Siracusa, lì vedete già che l'immaginazione scientifico-tecnica è potentemente stimolata da questioni che chiameremmo di carattere strettamente militare, ed è solo un piccolo esempio. Noi oggi ne abbiamo di molti più drammatici e di molti più, come dire, eclatanti. Ne ho qui uno, per esempio, che è... Questo è un libro che è appena uscito in italiano di Peter Goodchild, che è un giornalista della BBC, che ha dedicato una ricostruzione appassionata alla figura di Edward Teller, il grande protagonista della guerra nucleare e della corsa agli armamenti. Quello che, mentre lavorava la bomba H con gli altri suoi amici e colleghi a Los Alamos sotto la guida di Robert Oppenheimer, già pensava alla bomba H, non alla A ma alla H, quindi già pensava alla fusione nucleare invece che alla fissione nucleare. nucleare. Adesso, col senno di poi, basta fare un piccolo diagramma sulla scala di Mendeleev, si vede subito che geometricamente la fissione e la fusione fanno parte di una simmetria speculare. Questo vuol dire avere una mentalità matematica che permette di vedere in maniera molto compatta insieme due fenomeni tecnicamente molto diversi. Ma allora ci voleva appunto la genialità, secondo me, assoluta di Teller per capire un problema del genere. Forse Einstein ci arrivava, ecco, ma Einstein si era tenuto un po' più defilato da tale questione. No, ho preso questo esempio anche di Teller per il nostro discuss, perché Teller nasce come chimico, studia chimica, si forma alla chimica nella sua Budapest e poi dopo viene a perfezionarsi a Karlsruhe, alla Farben tedesca. Poi dopo però si rende conto che la chimica di base si comprende bene solo con la fisica quantistica, e da qui passa alla fisica, e dalla fisica quantistica poi anche alla matematica sottostante, grazie soprattutto all'interazione con figure di grande prestigio, tra cui spicca il tedesco Werner Heisenberg, no? Lo scopritore del principio di indeterminazione. Ed è poi da questa teoria che Teller passerà allo studio delle applicazioni concrete della fisica delle particelle e delle alte energie. Questa è la seconda parte della sua vita, quella che l'ha portato a essere appunto operaio, tra virgolette, a Los Alamos ai tempi della bomba A, cioè dell'atomica, poi il grande sostenitore della superbomba, cioè delle bombe H sempre più potenti, poi il sostenitore del progetto SDI, cioè l'iniziativa di difesa stellare, quella del presidente Reagan per intendersi, e infine nel sostenitore accanito dell'uso del nucleare anche in tempo di pace. In modo che una volta che parlavo con lui mi diceva che lui odiava sostanzialmente le camicie di tre colori: quella marrone perché detestava i nazisti, quella rossa perché c'era su esattamente con i comunisti, e poi aggiungeva quella verde, si tranquillizzi Bossi, non ce l'aveva con i Lombard, ma ce l'aveva con gli ecologisti di Greenpeace che l'avevano a lungo contestato per alcuni suoi tentativi di applicare il nucleare a scavare dei porti e delle basi per atomiche in Alaska. Quindi erano queste le tre camicie che detestavo. Io però ho citato tutto questo esempio perché da un certo punto di vista è uno dei più inquietanti, perché Teller sarà un cattivo, ma è un cattivo intelligente, è un cattivo molto sottile, è una persona capace giocare con la matematica e di capirne anche che le conseguenze. Uno che dice: io sono uno scienziato, dunque sono innamorato della conoscenza, e senza questo tipo di passione non si riesce ad andare avanti, ma nello stesso tempo mi rendo conto, aggiunge Teller, che la scienza non è soltanto idee, ma è libertà concreta di fare, e in questo fare ci sono i rischi più difficili e più terribili che l'essere umano può assumere. Vorrei avviarmi, abbiamo detto mezz'ora, quindi alla conclusione con una battuta di uno dei miei poeti preferiti, che mi consentirete, una battuta molto pessimistica. Tremano di terrore gli scienziati e la mente europea si arresta. È un verso degli ultimi frammenti dei Cantos di Ezra Pound, scritti da Pound quando era ancora detenuto in un manicomio criminale senza aver mai subito un regolare legale processo, e sono stati scritti quando è arrivato nel manicomio l'eco del primo grande esperimento, il primo grande test all'idrogeno voluto da Teller, in cui un intero atollo fu letteralmente polverizzato. Bisogna dire che Tell stesso commentò dicendo: non me l'aspettavo che sarebbe stato così potente. E Robert Oppenheimer, che già allora giocava al pacifista, pochi mesi dopo, siamo nel 53, disse: beh, adesso che abbiamo questa nuova superbomba, perché non la tiriamo sulla testa dei nordcoreani? Eravamo ai tempi della guerra di Corea e inizialmente le cose per le truppe americane andavano piuttosto male. Questo mostra appunto quanto la scienza sia anche sporca, quanto questa conquista della modernità oggi presentino anche dei lati che possono sembrarci se sono terrificanti, ma il problema è: o siamo in grado di fare fronte a questo tipo di terrore, o dobbiamo concludere che la mente europea si arresta. Ora, un Paolo un po' più giovane, negli anni 30 del secolo scorso, venne fuori in una piccola conferenza con un elogio straordinario della Ferrari, dicendo che agli dèi del sangue e del coltello, cioè ai vecchi dèi primitivi che richiedono sacrifici umani, preferiva il mondo della tecnica, con la sua bellezza e con la sua potenza. Ecco, io sono dell'idea che questa linea sia ancora una linea interessante, che valga la pena di percorrere, sapendo benissimo quali sono i rischi, e sapendo benissimo che i rischi oggi non vengono soltanto da un settore come quello del nucleare, ma vengono anche da altri settori. E forse oggi la polemica emotiva si è spostata dal nucleare, per esempio nel settore delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica. Uno per tutti, il cancan sollevato intorno agli OGM, tanto per dirne una, quando poi non ci sono quelli che invece temono che l'informatica sia una bomba ancora più distruttiva, anche se moralmente non fisicamente, di quanto non siano le bombe H del professor Tell. Questa tesi è stata recentemente sostenuta, per esempio, da un architetto urbanista francese con escursioni filosofiche che si chiama Virilio. Ecco, io, per carità, questi sono pericoli è bene mettere in luce, ma la contemplazione della propria paura, secondo me, porta a una sovranità di tipo besiana, così mi riporto a un lessico che piace all'amico Giacomo Maramao. Ma io penso che bisogna andare un po' più in là, che la paura sia un elemento di costruzione politica, ma un pessimo elemento di costruzione, e che alla paura obesiana occorra sostituire invece proprio la chiarezza metodologica e la ricchezza individualistica di Spinoza. In questo senso quell'accoppiamento che tu, Giacomo, facevi, Hume-Spinoza, è tutt'altro che Balzano. Mi è capitato di beccare a Parigi, però l'ho lasciato lì perché costava troppo, se torno non me lo ricompro, però un volumaccio della Vren in cui un filosofo cercava di mostrare quante analogie ci sono segrete nonostante la grande differenza tra un empirista e un metafisico. Ma l'idea di fondo a me sembra chiara. Spinoza e Hume chiudono in modo diverso con vecchie polverose metafisiche, uno no, rovinandole dal basso, l'altro invece c'è dicendo: beh, se volete fare una metafisica, fate la mia. E questa è la metafisica che poi spiana la via alla comprensione scientifica, da Spinoza a Damasio, se volete, per fare uno slogan. Ecco, allora, in questo tipo di impostazione, credetemi, non è scientismo, ma è passione per la conoscenza scientifica, innamoramento della comprensione scientifica. In questo io sono perfettamente d'accordo con Tell. Allora, in questa prospettiva non c'è tanto spazio per costruire sulla paura, ma invece per costruire sulla comprensione, e un momento della comprensione è proprio quello della costruzione anche di garanzie democratiche, quelle stesse che Spinoza descrive mirabilmente nel capitolo 20, che è il capitolo finale del suo trattato teologico ideologico-politico. La comunità, lo Stato, il metastato, i club, eccetera, sono tutte cose interessanti, però non sono delle finalità a cui tendono gli individui, sono gli strumenti per l'individuo della sua più completa realizzazione. Mi dai l'acqua, grazie, se no la mia tosse. Bene, ringrazio molto Giulio Giorello perché ha, come dire, ha fatto una carrellata nella quale ha posto sul tappeto una serie di temi aperti che mi limito unicamente ad indicare, almeno quelli che più mi hanno colpito. Intanto questa intreccio costante che c'è tra la scienza teorica in senso anche, come dire, basilare, la scienza di base, la ricerca scientifica di base e gli strumenti. Il caso di Galileo, cioè Galileo in pratica fa un salto di qualità quando usa il suo tubo ottico, quando usa il cannocchiale, nel famoso ottobre 1609. E poi tre fasi della rivoluzione scientifica, se volete anche quattro, no? Cioè la fase galileiana, quella che fa capo a Darwin, e quindi l'evoluzionismo, il tempo che entra all'interno della natura vivente, e poi la rivoluzione della relatività e della meccanica quantistica, e poi la scoperta del DNA da parte di Crick e Watson. Sono, diciamo, fasi assolutamente essenziali. All'interno di questo processo la scienza diviene una spinta propulsiva straordinaria anche della critica, della libertà. Ma naturalmente Giulio dice anche che la scienza è andata avanti dal punto di vista, è andata sempre avanti dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, non soltanto con la libertà e la critica, ma anche con la guerra. Cioè la guerra in qualche modo è stato un volano, diciamo, fondamentale della ricerca scientifica, e spesse volte la scienza ha intrecciato le due dimensioni, quella emancipativa e la dimensione invece che potremmo considerare più legata alla logica della potenza, soprattutto nel mondo moderno. Nel mondo contemporaneo si è venuta intrecciando con le logiche dell'economia industriale capitalistica, no? Del capitale. E nell'ultima parte ha proposto un asse tra la libertà di critica che viene fuori dalla scienza e il superamento della logica obesiana della paura, la logica obesiana della paura che in qualche modo continua a essere la base di legittimazione dei nostri ordinamenti. E naturalmente sullo sfondo vi è questo problema della relazione biunivoca che bisognerebbe stabilire tra democrazia e crescita della conoscenza. Qui si pone naturalmente un problema molto serio: in che misura, no, i multimedia della comunicazione globale contribuiscono fino in fondo alla crescita della conoscenza o non determinano invece degli effetti in qualche modo di addormentamento della coscienza critica, di oblio della coscienza critica. E quindi insomma siamo entrati all'interno. Ma fondamentalmente la vicenda della modernità non è una vicenda separabile da quella delle rivoluzioni scientifiche, lo dico al plurale per la semplice ragione che il caso di Galileo sta a dimostrare che lui stesso, Galileo, veniva citato non soltanto da scienziati ma anche da politici come simbolo e vessillo, no? Della libertà di dissenso, di critica e anche della libertà di andare verso nuove soluzioni della comunità umana. E la parola ad Antonio Di Meo per il commento. Sì, okay. Beh. Oddio, il commento è un po' cercherò di sulle stesse problematiche, interloquire su alcune questioni. Diciamo, a me pare che, evocando quei nomi, Galilei, Darwin, Giorello abbia evocato due capisaldi della modernità, rivelando anche, nell'ambito della sua esposizione, che sia Galilei e Copernico che l'aveva preceduto, sia Darwin, danno della modernità però avviano la modernità o sviluppano la modernità su un crinale molto ambivalente. Galilei è quello che ha rivelato che la Luna non è un corpo perfetto come si pensava, i satelliti di Giove, tutte queste cose, la caduta dei gravi, ma è anche quello che in più di Copernico ha messo in crisi per primo nel Saggiatore, come sai, l'idea che il nostro rapporto sensibile col mondo sia un rapporto vero, no? Con la distinzione qualità primaria e qualità secondaria, odori, colori, sapori, eccetera, in realtà non esistono, sono, no, come sai, puri nomi. Cioè il nostro rapporto, tema che sarà ripreso da Cartesio, sull'idea delle qualità come se, viene messo in crisi con Galilei, e ripeto prima ancora con Copernico, l'idea che la nostra vita comune, che viviamo col senso comune, è una vita vera. Cioè una cosa sono le cose che noi viviamo, di cui abbiamo esperienza sensibilmente, e un'altra cosa è la verità di come stanno veramente le cose. Non è un caso che, tanto per Pirandello, nel Fu Mattia Pascale, nella seconda introduzione filosofica all'opera, dice: maledetto sia Copernico, perché Copernico è quello che ha messo, col fatto che il Sole non è il Sole a ruotare intorno alla Terra, eccetera, eccetera, ha cominciato a mettere in crisi qualcosa che Galilei porterà fino all'estremo e che aprirà tutto. Adesso Giulio su questo potrebbero dire cose all'infinito, aprirà tutta, una sfera, esattamente, una sfera di un filone di riflessione nel pensiero moderno sul contrasto vero o presunto, io ho qualche dubbio, fra scienza e vita. E quindi mette in crisi, Galilei, più di Copernico e più di tutti quelli che sono venuti dopo, lo stesso Newton, forse solo come Cartesio. No, l'idea che tutte le cose che noi viviamo sensibilmente corrisponda a qualcosa di vero, e invece sappiamo ormai dopo Galilei che questo non è. E l'altro aspetto che io mi permetto di segnalare, sempre in relazione a Galilei, Galilei capisce che nella scienza moderna dell'epoca sua, della fisica classica, quella che lui stava fondando, e nella cosmologia copernicana, ci può essere il pericolo del nichilismo. Quando nel discorso sopra i due massimi sistemi del mondo fa la distinzione celeberrima del conoscere intensive o estensive, dice, lo fa proprio per impedire che il confronto fra un universo dilatato e l'infinita sapienza di Dio possa portare l'uomo ad essere annichilito. No? Si conosce Socrate, sapere di non sapere, riprende il tema del sapere del comignore, e questo è un tema socratico che nella scienza moderna diventa, diciamo, clamorosamente invadente, diciamo così, che viene ripreso da moltissimi. Cioè la scienza moderna in realtà, mentre da una parte arriviamo fino a Teller che distrugge l'atollo, diciamo, senza volerlo, o a Hiroshima e Nagasaki, su quello che e comunque crea le possibilità stesse di una distruzione della specie umana, grazie alla relazione conoscenza e tecnologia a fin di male, diciamo così. Quindi sembrerebbe esaltare, diciamo, la potenza dell'uomo grazie alla conoscenza di trasformazione della natura, e questo è un fatto solo moderno. Però, d'altro canto, proprio grazie a Galilei e grazie a Darwin, fa capire all'uomo di essere un ente limitato, infinitamente modesto rispetto all'economia dell'universo. Quando tu parli che l'universo è uno solo dei tanti possibili, no? E che in realtà noi siamo solo, diciamo, viviamo come atomi in un universo enorme che ha 15 miliardi di anni in espansione, forse in espansione infinita, ma non si sa, può darsi che ritorni indietro, insomma, e così via. Però è uno degli infiniti possibili, ma questo, diciamo, veramente porta, e poi siamo figli di un'evoluzione, non siamo, come dire, figli prediletti di nessuno, grazie a Darwin. E allora c'è l'altro aspetto della modernità, appunto gli stessi autori che tu giustamente metti in rilievo sono quelli che hanno contemporaneamente abbassato l'uomo razionale al punto da arrivare da poter arrivare a pensarsi come nulla, tema su cui, insomma, da Leopardi a Nietzsche, insomma, che è un tema che peraltro, diciamo, ricorre continuamente nel dibattito filosofico, anche da parte degli stessi scienziati, sia dell'epoca moderna sia dell'epoca contemporanea. Pensiamo a Monod, adesso cito, no, quest'idea di un essere capitato per caso in un universo sordo e muto ai suoi desideri, alle sue passioni, ai suoi voleri e così via, nel caso della necessità. Ma è quello che diceva già Galilei quando parlava di natura inesorabile, no? Inesorabile significa che non può essere pregata, che non risponde alle nostre preghiere, che è sorda ai nostri desideri, alle nostre passioni, alla nostra volontà. Cioè che non c'è più un rapporto di alleanza fra uomo e natura, perché la natura segue le leggi geometriche che ci ha ricordato Giorello, e questo è un tema enorme che è stato ripreso anche nella scienza contemporanea, nella Prigogine, Nuova Alleanza, in cui si tenta di ricostituire una qualche consonanza su una, secondo me giustamente, per la verità, fra uomo e natura, anche perché noi siamo natura, quindi da qualche parte siamo pur venuti, diciamo, in qualche modo, se stiamo qui è perché naturalmente è stato possibile che noi ci fossimo, ecco. Questo mi pare, diciamo così, è un aspetto, e io ho e credo che uno dopo Galilei e forse dopo Giordano Bruno, diciamo, in Italia quello che l'ha capito di più è stato Leopardi, quando nel Copernico, nell'operetto Morale il Copernico, dice la questione non è solo fisica, quella ma è una rivoluzione di tutti i rapporti reali e di quello che l'uomo si è immaginato finora di essere. Cioè il copernicanesimo e soprattutto Galilei sconvolge il sistema dell'immaginazione umana. che è qualcosa un po' di più del semplice, ma pure diciamo, di qualche rilevanza, sconvolgimento dei rapporti diciamo, dell'uomo come ente fisico e come abitatore della terra che cambia posizione e così via. Quindi siamo, diciamo così, con la modernità, giustamente tu hai evocato questi due personaggi, Galilei e Darwin, e il problema dello strumento e della tecnologia, perché appunto da una parte sembra che la scienza moderna, che a mio avviso, e qui sono d'accordo con Giulio, insomma, è forse diciamo il punto decisivo della nascita della modernità, anche per la teoria politica, no? La fisica sociale, la matematica sociale dell'epoca moderna nasce cercando di applicare, no? Hobbes, tutti quanti, insomma, cercando di applicare alla società i modelli delle scienze fisiche, ritenuto soprattutto il modello newtoniano in particolare. Questo, però anche qui, diciamo, se noi prendiamo l'applicazione delle scienze fisiche alla società, noi vediamo che continuamente si ripropone il problema del fatto che l'applicazione delle scienze fisiche alla società abbassa l'individuo, depriva l'individuo della sua individualità. Faccio un esempio fra i tantissimi che se ne possono fare. Quando Quetelet scrive della fisica sociale applicando la statistica alla società, dice, ma precorrendo Freud in qualche modo, dice che strano, perché se noi applichiamo la scienza statistica e il calcolo della probabilità alla società, ci accorgiamo che l'aspetto morale dell'uomo non conta più nulla. Perché se le leggi statistiche stabiliscono che ci sono 6 suicidi all'anno in Svezia, per dire, 6 persone statisticamente in Svezia si suicidano, che lo vogliono o meno, diciamo così. Non dipende più dalla scelta, dalla volontà individuale suicidarsi, ma rientra, diciamo, in una legge statistica che più o meno viene applicata. Quindi, come vedete, diciamo, la relazione, no? La modernità e il rapporto scienza-modernità è un rapporto conflittuale drammatico. E devo dire che l'evocare Teller mi pare pertinente, perché effettivamente è uno dei personaggi che, diciamo così, coniuga l'aspetto, l'amore per la conoscenza, ma con la creazione della possibilità che questa conoscenza, anzi che la possibilità che il soggetto di questo amore della conoscenza possa non esistere più, malgrado che noi siamo il frutto di una lunghissima evoluzione biologica che potrebbe essere interrotta in ogni momento, sperando di no. Ecco. Ultimo, questo già l'aveva detto Freud, che è il terzo, secondo me, di fra questi personaggi, io metterei Copernico, Galilei, Darwin e Freud. Freud anche, diciamo, molto immodestamente dice, io sono il terzo ad aver dato un colpo mortale al narcisismo dell'uomo. Il primo è stato Galilei, che l'ha tolto da essere al centro dell'universo, scusate, Copernico. Il secondo è stato Darwin, che l'ha ridotto, diciamo, ad essere solo l'esito di un'evoluzione per lo più casuale del vivente. Il terzo sono io, insomma, anche per uno che dice che l'uomo non è il narcisista, insomma, diciamo, cioè il terzo, però insomma, adesso lasciamo perdere questo paradosso, diciamo, il terzo sono io che ho ecco, diciamo, il terzo sono io che ho dimostrato che l'uomo non è padrone nemmeno in casa sua, diciamo così. Ecco, c'è questa duplicità, c'è questa, nella modernità ci può essere motivo per aver paura, però qua stiamo e qui è la sfida. Bene, grazie a... ad Antonio Di Meo, che ha posto una serie di questioni, soprattutto ha anche messo l'accento sul nichilismo, in qualche modo, che è presente nella scienza moderna, soprattutto anche nella consapevolezza di Galileo. Questo mi sembra un riferimento molto interessante, quello che tu facevi a quel passo del discorso sopra i due massimi sistemi, dove appunto il dialogo sui massimi sistemi, in cui appunto lui parla della natura, natura inesorabile. Tra parentesi, tu sai bene che c'è un bel libro di uno storico del pensiero scientifico e filosofico italiano su Leopardi e la scienza, appunto, che Polizzi, Gaspare Polizzi, ha dedicato un libro anni fa molto bello ai rapporti tra Leopardi e la scienza. E naturalmente tu hai posto due problemi, ma che sono, per un verso, il tema delle tre ferite al narcisismo, quelle che hanno fatto rotolare via l'uomo dal centro del mondo, che la ferita inferta da Copernico, ma poi di fatto da Galileo, e la ferita inferta da Darwin, e la ferita inferta da Freud, quella inferta da Freud è la ferita, diciamo, che in qualche modo riguarda la struttura interna della mente, nel senso che almeno Cartesio aveva detto: noi troviamo la certezza nel cogito. E Freud dice: sì, ma qui nemmeno, dice, noi siamo laddove non c'è il cogito, dove evidentemente siamo diciamo, di quale prese con le pulsioni inconsce, eccetera. E naturalmente tutto quanto lo scenario iniziale, la scienza moderna, la rivoluzione scientifica moderna, parte dall'inganno dei sensi. C'è tutta quella bellissima letteratura nel Seicento, che una letteratura post-galileiana che tiene insieme, per un verso, i sogni di Cartesio, il dubbio iperbolico, sto vedendo delle cose vere oppure sto sognando, e la vita è sogno di Calderon, della barca, perché tutto sommato la linea di confine tra la realtà e il sogno sembra essere svanita, perché appunto i sensi non ci danno più l'appiglio. La scienza moderna nasce dopo Galilei. Dopo Galilei, non puoi attribuirgli troppo, come un dubbio, però. Però è una, certo, sì. Certamente. Allora, io procederei nel seguente modo. Darei la parola a qualcuno dei presenti e dopodiché insomma Giorello risponderà a tutte quante le domande e gli stimoli che ha ricevuto. Tutte quante forse no. Eh? Tutte quante non lo so, perché sono una conferenza di No, tutte no, insomma reagirai. Professor Massimo Terni. No. Allora, sulla questione dell'inganno dei sensi. Cioè sul fatto che viene messo in discussione la realtà della nostra vita sensoriale. No? Allora, io so che, questo per quanto riguarda Galilei, no? Allora, sono anche i manuali insegnano che Hobbes, nella sua spiegazione della formazione dei nostri pensieri, ricorre alla fisica galileiana e a tutta l'esperienza della percezione sensoriale. Niente, volevo una spiegazione su questo punto che a me interessa in particolare. Grazie. Ci sono altre osservazioni? Io volevo chiedere a Giorello se può approfondire, oltre se lo dici qualcosa di più di quello, nel breve accenno che ha fatto della Volpe che parla di Marx come del Galileo delle scienze sociali, sapere un po' qual è l'idea di le scienze morali. Sì, prego. Posso parlare? Ma non ti chiedi di lei cos'è, perché non si sente. Si sente, allora. Si sente, no, intanto volevo ringraziare, perché mi è sembrato molto interessante sia l'intervento di Giorello, sia quello del suo commentatore. E mi sembra, come dire, che sia venuto fuori questo doppio profilo e questa ambiguità della potenza della scienza. coscienza da una parte e dall'altra dell'impotenza, o comunque diciamo un lato nascosto e oscuro che fa sì che faccia anche che quella scienza, diciamo, si confronti e metta a nudo anche delle forme di impotenza dell'uomo, delle incapacità e così via. E a questo proposito, per esempio, mi è sembrato molto interessante il riferimento alla dissociazione sempre esistente tra la scienza, il campo della scienza e l'impossibilità di applicarlo, per esempio, al mondo vivente, quello stesso schema che faceva Di Meo. Quindi, come dire, la rivoluzione, per dire, a me viene in mente un esempio banale, ma non troppo, quello del taylorismo, cioè il tentativo di applicare appunto un modello scientifico all'organizzazione del lavoro, che poi si scontra invece con alcune debolezze perché non si tiene presente il mondo complesso del lavoratore, la sua capacità di essere appunto un essere vivente e così via. E questi esempi si potrebbero moltiplicare per molti. Ecco, allora si potrebbe dire che il percorso della modernità e del diciamo è anche un confronto tra questa potenza e impotenza della scienza, non so se siano giusti i termini. Grazie. La potenza della scienza è l'impotenza dell'uomo. Ecco, esatto. È potentissimo lo stesso. Qualche altra questione? Allora, intanto magari se Giulio vuole dire qualcosa, ovviamente no. Facciamo rapido, però se no il rischio è che domani stiamo ancora qua. No, i temi sono talmente belli, le domande così profonde, che mi permettete di rispondere un po' per slogan, perché se no non veramente rischio di fare la notte fonda. Cioè, allora, De Meo ha elencato tutta una serie di problemi affascinanti. Su alcuni forse posso rispondere molto rapidamente, per esempio sulla tematica Galileo Leopardi. Certo, quello, il riferimento a Leopardi è necessario quasi in questo contesto. Ricordatevi che nella crestomazia italiana la prosa, credo che fosse 1828-27, però posso sbagliarmi, Galileo è presentato come il modello della prosa civile degli italiani, da Leopardi. Non della divulgazione scientifica. Eppure Leopardi era uno che apprezzava Boccaccio e Machiavelli, che erano venuti un po' prima di Galileo. Però è il modello della prosa civile degli italiani, cioè la chiarezza intellettuale ha valenza politica. Questa è una grande realizzazione di Leopardi, il quale certo poi è quello che si rivolge alla Luna raccontandogli i suoi tormenti, i suoi travagli, o se per quello di un pastore errante dell'Asia, quello vedete un po' voi, la Luna non risponde. Non può rispondere alla Luna di Galileo, cosa volete che risponda? Un pezzo di roccia risponda. Ecco, quindi è perfetto da questo punto di vista il riferimento a Leopardi, nel suo elemento negativo e nel suo elemento positivo. Tanto Polizzi l'ha detto anche molto bene. L'altro riferimento letterario che ha fatto l'amico De Meo è il riferimento a Pirandello. Certo, maledetto sia Copernico, però senza Copernico niente Pirandello. Per questo l'aveva molto ben capito Montaigne in uno dei suoi saggi, quello che si chiama l'Apologia di Raymond Sebond, dove Montaigne fa vedere che il sistema copernicano e il sistema ticonico e il sistema tolemaico sono per larghi aspetti matematicamente equivalenti. Si può dare una dimostrazione matematica in termini di serie di Fourier, se uno è interessato, questa parte è data secondo me molto bene anche nell'ultimo libretto su Galileo di Pier Giorgio Di Freddi, che ha detto, questa parte è detta molto bene. E allora cosa scegliere? Impotenza della ragione, che non sappiamo quale dei tre. Ecco, noi oggi naturalmente siamo copernicani per una serie di ragioni aggiuntive, ci è voluto Galileo, ci è voluto Keplero e ci è voluto soprattutto Newton. soprattutto Newton, se no, eccetera, eccetera. Ma il dibattito è da questo punto di vista ancora aperto. Quindi il relativismo, che secondo me è dentro la scienza contemporanea, è sì, certamente figlio di questa grande polemica. Figlio di questa grande polemica, lo riconosceva ammirabilmente nel 1931 Bruno Nodefinetti. Copernico non è un relativista nel senso moderno del termine, forse non è nemmeno Einstein un relativista filosofico, ma all'enfatizzazione dell'importanza della particolare prospettiva che tu assumi nel contemplare il cosmo, e beh, da Copernico ad Einstein lo sviluppo dell'astronomia e della fisica ha dato un colpo mortale a ogni pretesa di assolutismo. Questa tesi appunto di Bruno Nodefinetti nel 1931, nel suo testo fondamentale Probabilismo, che purtroppo non si trova in giro, per fortuna è stato ristampato nel 1989 da Marco Mondadori in un'antologia intitolata La logica dell'incerto, pubblicata al Saggiatore, e purtroppo anche questa adesso fuori commercio. Io spero di poterla fare ripubblicare il più presto possibile. Quindi il maligno pisano, questo era il termine che usava Gadda per Galileo Galilei, di cose ne ha buttato a mare parecchie, e tutte quelle di cui parla Demeo sono cose che Galileo Galilei ha buttato a mare. In particolare l'ha buttato a mare con la distinzione tra qualità primarie e secondarie, poi ripresa da Locke e da Cartesio, però l'ha buttato a mare in un modo molto curioso, perché poi queste stesse elementi galileiani si ripossono mettere in discussione e ricostruire, per esempio, una teoria interessante dei sensi che ci spiega come i sensi funzionano, come i sensi ci costruiscono il mondo e sono un mirabile strumento di adattamento al mondo. Voglio dire, Berkeley, per esempio, George Berkeley, da questo punto di vista, la sua teoria della visione è un capolavoro assoluto, se mi permettete l'uso del termine assoluto, o l'analisi delle sensazioni di Mach, per così dire. Quindi non è che proprio noi abbiamo cacciato via i sensi, semplicemente lì oggi siamo in grado di capire un po' di più di come i sensi siano un mirabile elemento di adattamento all'ambiente. Questa è la forza della prospettiva darwiniana, e nello stesso tempo come anche il pensiero sia un forte elemento di adattamento nel presentare mondi che vanno, che non è che il mondo dei sensi sbagliati, ma vanno al di là di questo mondo e ne presentano degli altri che hanno relazioni non banali con il mondo dei sensi. Sotto questo profilo l'indagine attuale della neurofisiologia ha una ricchezza epistemologica fortissima. Sotto questo profilo condivido quello che ha scritto il mio collega Enrico Bellone nel suo penultimo libro, che si chiama Molte Nature, proprio le molte nature, una in quali quella che ci è rivelata dai nostri sensi, quelli di un'ape saranno diversi, quelli di un pipistrello saranno diversi, queste varie molte nature poi si incontrano con la natura rivelataci dalla fisica e dalla biologia, ma non si tratta di dire che l'una è vera e l'altra falsa, sono diversi livelli di costruzione della natura quella lì che emergono. Quindi io non direi che proprio i sensi sono diventati semplicemente ingannatori. Si dice anche prima che erano ingannatori, gli scettici ci hanno lavorato peraltro in modo mirabile. La cosa interessante è che adesso ne sappiamo un pochettino di più su come funzionano i nostri sensi, e siamo anche in grado di ricostruire, grazie ai risultati della neurofisiologia, i rapporti che ci sono tra le nostre, dal mondo delle nostre percezioni, per usare un riferimento ovvio a George Berkeley, e quello dei processi che avvengono nel nostro sistema nervoso centrale. Questo è un terreno che io ritengo di grandissimo interesse oggi. Come al solito, coraggio e modestia. Aveva ragione il filosofo e matematico Imre Lakatos quando diceva che la scienza è coraggiosa e modesta, perché appunto ci dà quelle stangate sui denti che De Meo ha citato prima, appunto il copernicanesimo con Galileo, Bruno, Newton, eccetera, e poi Darwin, naturalmente Freud, perché non aggiungere, come proponeva Papini, che su queste cose qui ci capiva va bene, anche perché la rivoluzione nel campo, allora si diceva della robotica, della cibernetica, ma pensate a Turing e al fatto che alcuni programmi forse non imitano l'uomo, però lo battono, per esempio agli scacchi, che brutta figura che ci facciamo, no? Ecco, quindi sono elementi su cui vale la pena di riflettere profondamente. Ma il problema più interessante che pone l'intervento di De Meo, e che anche la signora nel terzo intervento ha ripreso, è la questione del pericolo del nichilismo, che mi sembra uno dei punti più forti. Allora, il pericolo del nichilismo è una tentazione, la tentazione del nichilismo comincia con la scienza, con Galileo, e qui dipende, sai, nella storia delle idee è molto facile giocare, perché qualcuno potrebbe dire che già Gilgamesh è un nichilista, quando si domanda, io sono qui, che morirò, non sarò più niente di me, ho già visto morire il mio migliore amico, cerco il segreto della vita e regolarmente non lo trova. Cerca quello dell'eterna, della perpetua giovinezza, beh, è una consolazione perlomeno, cioè restare giovani finché muori, però resti giovane e potente in tutti i sensi, e anche questo gli va male. Voglio dire, se si vuole, cioè, io ho sempre detto che c'è una delle prime forme di nichilismo, Pace Severino, che lo fa cominciare con Parmenide, è il nichilismo assiro, che è un po' prima di Parmenide. Ma se guardiamo la nostra modernità, certo Galileo ha tutte quelle stimmate che tu dici, però vorrei ricordare che in questo ha dei colleghi straordinari nel nichilismo. L'uomo si pensa come nulla. Non vi ricorda un certo signore di Port Royal che si chiamava Blaise Pascal? Oppure cos'è l'uomo? Nulla di fronte alla potenza di Dio. Questo è un signore, un umanista francese, poi diventato ginevrino di adozione, che si chiama Giovanni Calvino. Cioè, basterebbe vedere un po' che al mulino del nichilismo il cristianesimo ha portato veramente tonnellate di tigliacqua, insomma. Ecco, quindi il pericolo del nichilismo io credo che sia ricorrente ogni qualvolta uno tenta un grande sistema, poi quando il sistema non funziona più o comincia a scricchiolare, il nichilismo riemerge. Pensate a Newton ha un frammento molto bello che suona così, per spiegare l'azione a distanza, che sembrava inconcepibile ai cartesiani, Newton dice, ma in realtà il vuoto non è proprio vuoto, è lo spazio riempito dal corpo di Dio. E aggiunge, certo è lo spazio riempito dal corpo di Dio, e questo corpo però non interferisce con l'altra materia, perché altrimenti questo corpo sarebbe un ostacolo ai movimenti studiati dal Newton stesso. Anzi, dice, è lì, ma è come se non ci fosse, come se nulla fosse al suo posto, as a nothing were in its place. Questo in un frammento di Newton del 66, del 1666. Allora capite che più nichilista di così, uno che dice che il corpo di Dio alla fine coincide con il nulla, non so, ecco, è come se as a nothing were in its place, come se il nothing proprio fosse al suo posto. Secondo me questa di Newton è una delle cose più nichiliste che mai sia stata scritta. Heidegger ancora da correre, Heidegger rispetto a Newton ha veramente da correre ancora. Vabbè, ecco, quindi si potrebbero fare tutta una serie di questioni. Questa è anche una delle ragioni per le quali, così rispondo a quello che ha detto Massimo Terni, Hobbes accettava di Galileo l'aspetto atomistico corpuscolaristico presente nei discorsi, ma non il vuoto. Tant'è vero che si cacciò in una dura controversia con l'irlandese Robert Boyle, dicendo che il vuoto di cui parlavano i fisici era un'insensatezza, e poi l'ha chiamato alla sua casa e ha detto vieni qui a vedere, gli ha tirato fuori una campana di vetro e una pompa aspirante e ha fatto il vuoto io te lo produco io con la tecnica. Questo è stato uno degli esempi secondo me più interessanti di come la scienza sia sovvertitrice anche dei pregiudizi filosofici, in particolare dei pregiudizi di Hobbes contro il vuoto, che siccome non essere è un fantasma, quindi non bisogna parlare. Ecco, questo è un argomento molto, molto interessante, c'è una letteratura sterminata ormai sull'argomento perché piace molto, adesso poi è di moda difendere Hobbes contro i cattivi scienziati che lo hanno bastonato. Io invece continuo a tenere per Wallis, per John Wallis e per Robert Boyle contro Hobbes, devo dire, le mie personali le simpatie. Così rispondo un po' anche alle questioni che sono già state dette prima. Una delle questioni diceva richiama l'idea di Marx come il Galileo delle scienze morali, era una idea cara a Della Volpe. Della Volpe l'ha ribadito più volte, in particolare, se non correggimi Giacomo, queste cose forse tu le conosci meglio di me, nella logica come scienza storica, ma prima era già detto nella logica come scienza positiva, giusto? Se ben mi ricordo. E queste cose qui piacevano anche al primo Colletti, per esempio, se non va, ecco, vedi, abbiamo beccato. Io sul fatto che Marx sia un Galileo delle scienze morali ho un dubbio, perché la matematica di Marx nel trattare le scienze morali è piuttosto rozza, ed è una matematica che sostanzialmente, detto molto brutalmente, si basa sull'idea di minimizzare o massimizzare, comunque di estremizzare una funzione, che è una cosa che funziona molto bene in fisica col calcolo delle variazioni, ma in economia un po' meno, perché in economia io ho la mia funzione da massimizzare, tu hai la tua, non è detto che andiamo d'accordo, come capita quando giochiamo a poker, ogni incasso mio è una perdita tua, senza bisogno di prendere in considerazione i giochi più rudi che sono quelli a somma zero, il problema di massimizzare più di una funzione è un grosso problema matematico ed è il problema centrale della teoria matematica dei giochi e del comportamento economico. Questa secondo me è la matematica delle scienze umane oggi. E allora non metterei Marx, ma ci metterei, non so, John von Neumann, piuttosto che John Nash, piuttosto che quello che secondo me è stato il più coerente in questo programma di ricerca, che è un altro grande premio Nobel per l'economia, ma è un matematico anche lui, crede che non si può dare ai matematici il premio Nobel, però glielo danno gli economisti di solito. No, e io direi in questo senso, forse il più grande in questo è stato l'ungherese John Arshani, che ha fortemente lavorato in questo contesto. Queste secondo me sono quelle che adesso stanno lavorando nelle scienze morali, certo con dei modelli astratti, dove non c'è abbastanza attrito con tutto il contesto che è coinvolto in queste situazioni, però questo capitava appunto, questa è un'altra realtà di Galileo, di falcare gli impedimenti della materia. Si può dire che una piuma e una palla di ferro cadono con la stessa cinematica se si fa astrazione del mezzo, dice Galileo, cioè se non si tiene conto della resistenza dell'aria. C'è un mucchio di fattori umani che intervengono quando noi consideriamo delle situazioni di conflitto o di cooperazione, per cui gli schemi della teoria dei giochi non tengono conto di tutte le variabili psicologiche, ma questo non è mica una critica agli schemi in quanto tali, vuol dire come se uno buttasse via la meccanica razionale perché è tipicamente una meccanica senza attrito, e se non è un problema dell'ingegnere che realizza macchine servendosi della meccanica razionale tener conto ad un certo punto dell'attrito, cosa che normalmente un ingegnere fa, se no le nostre macchine andrebbero a collassare l'una con l'altra perché non avrebbero i freni, insomma, ecco. Per cui bisogna secondo me stare molto attenti nel distinguere l'aspetto della teorizzazione con l'applicazione rivela i limiti della teorizzazione. È un bel esempio locale di quel tema globale che lei evocava prima, potenza-impotenza. Ecco, potenza non è che poi possiamo far tutto con le nostre teorie, con i nostri modelli, anzi in molti casi ci rendiamo conto dove il modello non funziona e non dove funziona. Questo però, insisto, vale nell'ingegneria come vale anche nelle matematiche, nei modelli matematici applicati all'economia e altri settori. Questo è un dibattito recentissimo, apertissimo, che presenta ovviamente tutta una serie, per esempio, di obiezioni psicologiche al fatto che alla teoria della razionalità, ma gli esseri umani non sono razionali e quindi non decidono usando la teoria della probabilità, la teoria dell'utilità attesa, piuttosto che la teoria dei giochi. Certo che non lo fanno, queste sono teorie normative, esattamente come rinfacciare alla meccanica razionale le che non tiene conto degli attriti, per forza non tiene conto degli attriti, esattamente come se noi rinfacciassimo il codice della strada che dice di non passare con rosso, il fatto che, detto che c'è molta gente sciagurata che in preda all'alcol o alla cocaina in genere passa con il rosso. Ma il codice della strada è fatto apposta come razionalità normativa per vedere quali casi empirici rispettano queste norme e quali no. Se tutti passassero con il verde basta, non ci sarebbe il problema di un codice della strada e farlo e di una polizia che lo deve fare rispettare. Quindi, d'altra parte, uno dei più saggi degli obiettori alla teoria della razionalità, che è secondo me un bel libro di qualche anno fa, pubblicato da Codice di Massimo Piattelli Palmarini, faceva vedere che i cosiddetti modelli di razionalità perturbata, se le perturbazioni tendono a zero, ridanno i modelli teorici della teoria delle decisioni razionali. È esattamente come quando voi in meccanica pensate che gli attriti tendano a zero, ritrovate il modello della meccanica senza attrito. Tutto questo è astrazione, sì, tutto questo è astrazione, me ne rendo conto. D'altra parte, senza l'astratto non c'è neanche comprensore del concreto, qui Della Volpe avrebbe fatto un ricamino dei suoi, e quindi rimandiamo a Della Volpe. Ma quello che a me interessava tener conto, credo di aver risposto sia la potenza della scienza come impotenza, sia Terni per quanto riguardava l'atomismo di Hobbes, sia Marx le scienze morali. Ecco, quello che a me interessava sottolineare è la risposta all'ultima delle obiezioni di De Meo, che è la più interessante, cioè l'uso della statistica, no? Se nella statistica l'individuo non conta. E già, dicevo... No, diceva che te lei, adesso io qui... No, ma è vero che l'individuo non conta. Con un esempietto lo capiamo subito. Supponete una situazione in cui ci sono due candidati alla leadership di un partito, che sono Bersani e Franceschini. Tanto per... E ci sono soltanto, è una situazione, è un esempietto, Giorello e Di Meo che spendono 2 euro per andare a decidere tra questi due esimi signori. Marino non c'è, se lo sono già mangiato gli orsi, quindi lo togliamo, perché facciamo un modello molto semplice. Giorello vota Bersani e Di Meo vota Franceschini. Oppure De Meo vota, è lui che vota Bersani e Giorello va su Franceschini, quindi si incrociano, si scambiano i due. Dal punto di vista statistico, un voto per Bersani e un voto per Franceschini, sia nella prima che nella seconda da situazione. Dal punto di vista psicologico, no, evidentemente. Ma anche da un punto di vista sociologico, supponiamo che, per esempio, che io non conti niente, come effettivamente non conto niente nell'opinione pubblica della sinistra, mentre De Meo conta molto di più. Allora, il fatto che Franceschini abbia avuto il voto di De Meo è molto importante. De Meo può fare una campagna di stampa a favore di Franceschini, può incitare le folle a sparare se non viene portato alla presidenza Franceschini. Cioè, quindi vedete che tutto dipende del livello... dal livello di analisi a cui noi ci poniamo. Ora, le statistiche ingannano, queste sì, più che i sensi, queste ingannano, perché appunto assumono sempre che gli elementi del test siano scambiabili l'uno con l'altro, ma se c'è una delle più interessanti analisi delle probabilità che sia mai stata fatta nel Novecento, erede di grandissime tradizioni che risalgono a Pascal, attenzione, è stata proprio quella di Bruno De Finetti, il quale ha mostrato che la ipotesi di scambiabilità si fa conformemente agli interessi e poi dopo la abbandoni quando tu hai tutta una serie di ragioni per abbandonarla. Quindi curiosamente una delle più interessanti difese dell'individuo viene da Bruno De Finetti, che è stato un critico spietato dell'oggettivismo della statistica. Ha fatto vedere che le statistiche sì sono importanti, ma dipendono tipicamente dall'ipotesi di scambiabilità che facciamo. Se noi non abbiamo ragione per fare questa ipotesi, le cose cambiano. Per esempio, io testo un farmaco su un campione misto, come spesso si fa, di 50-50% di maschi e di femmine. Allora che su questo farmaco agisca positivamente su Filippo piuttosto che su Marta è interessante, perché dice guardate, qui c'è un caso in cui funziona e un caso in cui non funziona, tutto tranquillo. Però poi si scopre che questo farmaco interagisce con la dotazione ormonale degli individui, e quello delle signore e quello dei maschietti sono diversi. Allora non posso più scambiare Marta con Filippo. Vede che quindi la scambiabilità è un'ipotesi che viene fatta caso per caso alla base delle nostre conoscenze e dei nostri interessi, cambiando gli interessi e le conoscenze di sfondo. Magnificamente avrebbe detto Vailati in polemica con Papini, le opinioni da una parte e i desideri dall'altra, in uno splendido dibattito dell'inizio del secolo scorso tra Giovanni Vailati e Giovanni Papini. Se cambiano la costellazione delle opinioni e dei desideri o dei nostri bisogni, evidentemente quello che è scambiabile oggi non lo è più domani. Se noi già usiamo questo tipo di cautela metodologica che De Finetti non si è mai stancato di raccomandare nel suo fecondo cammino nel campo della probabilità di fondamento della statistica, vedete che appunto un po' di sano individualismo anche che nelle scienze matematiche c'è, insomma, nelle scienze matematiche c'è. Ci tenevo a sottolineare questo, perché se no c'è sempre un po' l'idea che la scienza uccide l'uomo, uccide dell'individualità, uccide quello che è più bello. Dipende come si fa la scienza. Non è un gran modello scientifico, secondo me, quello del taylorismo. Ha avuto una grande importanza sociale sia negli Stati Uniti sia curiosamente anche in Unione Sovietica dopo la NEP, no? Con la NEP e dopo la NEP, però forse non è uno dei modelli lì a cui guarderei oggi, insomma, mirando all'organizzazione del lavoro. Però questo naturalmente aprirebbe qui un nuovo tema che ci terrebbe sempre qui su, fino all'alba come minimo, e quindi io chiuderei qui, o almeno se non ci sono altre domande, se il mio non vuole dire qualcosa, se Maramano si autodefiniva scientifico, non è che tutti quelli che si chiamano scientifici sono del lavoro. Parte... Non so se non ci sono altre questioni. Benissimo, allora ringraziamo molto Giulio Giorello e anche Antonio Di Meo. Va bene, alla prossima.